c'è, non ti vedo granché, sarà la luce. Sei accanto a me e non mi accorgo di te, non parli mai. Non so nemmeno più cosa mi aspettassi da noi. Né felici né infelici io e te, mediamente rapiti dal cuore. Né divisi né infiniti io e te, ma tenersi alle volte conviene. Le cose cambiano, vedrai, si aggiustano. Sono scuse, non siamo i soli noi, le rose muoiono, sai, solo scuse. Senti, non c'è più rumore tra noi, sarà la pace. È questo che vuoi, niente brividi, niente lividi. Non sono certo che starei meglio senza di te. Né felici né infelici. Non ho scuse.